Matteo, capitolo 13. In quel giorno Gesù, uscito di casa, si pose a sedere presso al mare, e molte turbe si radunarono attorno a lui, talché egli, montato in una barca, vi sedette, e tutta la moltitudine stava alla riva. Ed egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. E mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde nei luoghi rocciosi, ove non aveva molta terra, e subito spuntò, poiché non aveva terreno profondo. Ma levatosi il sole, fu riarsa, perché non aveva radice, si seccò. E un'altra cadde sulle spine, e le spine crebbero e l'affogarono, e un'altra cadde nella buona terra, e portò frutto, dando qual 100, qual 60, qual 30 per uno. Chi ha orecchi da udire, oda». Allora i discepoli accostatisi gli dissero: «Perché parli loro in parabole?» Ed egli rispose loro: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha, sarà dato, e sarà nell'abbondanza. Ma a chiunque non ha, sarà tolto anche quello che ha. Perciò parlo loro in parabole, perché vedendo non vedano, e udendo non odono e non intendono. E s'adempie in loro la profezia di Isaia che dice: Udrete coi vostri orecchi e non intenderete, guarderete coi vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo s'è fatto insensibile, sono divenuti duri d'orecchi, hanno chiuso gli occhi, che talora non veggano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendano col cuore e non si convertano, ed io non li guarisca. Ma beati gli occhi vostri, perché veggono, e i vostri orecchi perché odono, poiché in verità io vi dico che molti profeti e giusti desideravano vedere le cose che voi vedete e non le videro, e di udire le cose che voi udite e non le udirono. Voi dunque ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la intende, viene il maligno e porta via quel che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto la semenza lungo la strada. E quegli che ha ricevuto la semenza in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con allegrezza. Però non ha radice in sé, ma è di corta durata, e quando venga tribolazione o persecuzione a cagione della parola è subito scandalizzato. E quelli che ha ricevuto la semenza fra le spine è colui che ode la parola, poi le cure mondane e l'inganno delle ricchezze affogano la parola e così riesce infruttuosa. Ma quei che hanno ricevuto la semenza in buona terra è colui che ode la parola e l'intende, che porta del frutto e rende l'uno il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. Ed egli propose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile ad un uomo che ha seminato buona semenza nel suo campo, ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò delle zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. E quando l'erba fu nata ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie. E i servitori del padrone di casa vennero a dirgli: «Signore, non hai tu seminato buona semenza nel tuo campo? Come mai, dunque, c'è zizzania?» Ed egli disse loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servitori gli dissero: «Vuoi tu che andiamo a cogliere?» Ma egli rispose: «No, che talora, cogliendo le zizzanie, non sradichiate insieme con esse il grano. Lasciate che ambedue crescano assieme fino alla mietitura. E al tempo della mietitura io dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio». Egli rispose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granel di senapa che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è ben il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è maggiore dei legumi e diviene albero, tanto che gli uccelli del cielo vengano a ripararsi fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 staia di farina finché la pasta sia tutta lievitata. Tutte queste cose disse Gesù in parabole alle turbe, e senza parabola non diceva loro nulla, affinché si adempisse quel che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò in parabole la mia bocca, esporrò cose occulte fin dalla fondazione del mondo. Allora Gesù, lasciate le turbe, tornò a casa, e i suoi discepoli gli s'accostarono dicendo: spiegaci la parabola delle zizzanie del campo. Ed egli rispondendo disse loro: colui che semina la buona semenza è il figliuolo dell'uomo. Il campo è il mondo, la buona semenza sono i figliuoli del regno, le zizzanie sono i figliuoli del maligno. Il nemico che le ha seminate è il diavolo, la mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano col fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente. Il figliuolo dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità, e li getteranno nella fornace del fuoco. Qui vi sarà il pianto e lo stridor dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, oda. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde per l'allegrezza che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile ad un mercante che va in cerca di belle perle, e trovata una perla di gran prezzo se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Il regno dei cieli è simile anche a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni sorta di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva e, postesi a sedere, raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non val nulla. Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli e toglieranno i malvagi di mezzo ai giusti e li getteranno nella fornace del fuoco. Ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti. E avete inteso tutte queste cose? Essi gli risposero: sì. Allora disse loro: per questo ogni scriba ammaestrato nel regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale trae fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Or quando Gesù ebbe finito queste parabole, partì di là, e recatosi nella sua patria li ammaestrava nella loro sinagoga, tal che stupivano e dicevano: onde ha costui questa sapienza e queste opere potenti? Non è questo il figliuolo del falegname? Sua madre non si chiama Ella Maria, e suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte fra noi? Donde dunque vengano a lui queste cose? E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: un profeta non è sprezzato che nella sua patria e in casa sua. E non fece quivi molte opere potenti a cagione della loro incredulità.